Momento di Stefano Folli. Rientra in Italia dall'India uno dei Marò, uno solo dei due, quello che nei giorni scorsi ha avuto problemi di salute. Non è chiaro se rientri per sempre o solo per 3 mesi, il tempo di curarsi. In tal caso sarebbe quasi una beffa. Non solo, sarebbe una sofferenza ulteriore per il militare costretto a rientrare in India dopo la breve parentesi in patria, e sarebbe in questa ipotesi una nuova umiliazione inferta all'Italia sotto il mantello dell'atto caritatevole. In ogni caso è lampante che le autorità di Roma non hanno voce in capitolo in questa vicenda e non sono in grado di influenzarla in alcun modo. Che uno resti e l'altro parta, è comunque evidente che in oltre 2 anni non è stato fatto un solo passo avanti fra i governi, e tantomeno sul piano internazionale. A questo punto non c'è che attendere e sperare, purché si eviti l'enfasi al ritorno del primo Marò. Non è un nostro successo il suo ritorno, forse parziale, non è il frutto di un'iniziativa italiana.